patto tra gentiluomini, nel senso che pur chiedendo a Alessio di ritardare un po' il suo intervento, noi abbiamo necessità, abbiamo ancora 12 interventi, 6 di farli stasera e 6 domani al massimo, e quindi vi propongo, questi che siete rimasti, 7 minuti. Qualcuno ha parlato 18 minuti. Vai, Nelly, vai. Allora, io faccio parte del comitato IMS di Alessandria. Il segretario dell'Unione mi ha nominato e devo dire che mi vergogno andare alle riunioni, perché noi cosa facciamo lì? Noi abbagliamo le stupidaggini e che fa il burocrate dell'IMS. Ci sono dei ricorsi che respingono e che noi tentiamo di far passare, ma non passano, perché poi il direttore fa il ricorso a Roma. Cioè, c'è tutta una situazione all'interno dell'IMS che o noi riusciamo a ribaltarla, o altrimenti davvero. Io ricordo 25 anni fa c'era già l'idea, c'erano le due linee di pensiero: rimaniamo o usciamo. Erano le linee di pensiero che c'era nella CISL e hanno deciso di rimanere, ma rimanere così secondo me non vale la pena. E sicuramente non è Boeri che mi spaventa. Boeri può fare tutte le provocazioni che vuole, può dire tutte le stupidaggini che vuole, ma tutto sommato, se poi il ministro e poi il Parlamento che deve dar seguito o meno a quello che lui dice, meglio Boeri che Mastro Pasqua, su questo fuori. L'ultimo velocissimo. Sentenza 70, decreto 65. Abbiamo fatto fare le domande per l'interruzione. Però se noi andavamo all'INAS, l'INAS diceva no, non bisogna fare le domande. Io ho già parlato con Coli, poi. Invece noi dicevamo alla gente fai due raccomandate. Allora cosa ha fatto Melelli? Visto che lavorava all'INAS, ha telefonato alla Caracciolo, che è la responsabile tecnica dell'INAS nazionale, e la pensava come me, era una emerita stupidaggine, perché la prescrizione non esiste in quello specifico lì. Per cui vabbè, anche queste cose qui, i nostri pensionati andavano nei due uffici e poi rimanevano interdetti. Per cui queste cose qui o le coordiniamo come organizzazione o non ci facciamo una bella figura. Ho sentito parlare di amici che fanno i recapiti e che hanno esigenze di dare delle risposte immediate alla gente che si rivolge a loro. Io credo che il regionale abbia speso parecchi quattrini per fare corsi di formazione sulla contrattazione, ma sulla formazione tecnica, cioè quella formazione che ci permette di dire alla gente che per avere la 14ª ci va 13.049 euro, non ci va la scienza, ci va formazione, bisogna formare dei gruppi di lavoro che costantemente vengano interessati, aggiornati dalle norme che, ahimè, sono talmente continue e talmente veloci che o noi manteniamo un certo tipo di rapporto o davvero gli amici che vanno a fare i recapiti o non danno le risposte o le danno sbagliate. Per cui io chiedo che il regionale imposti dei corsi tecnici fatti dall'INAS. Qui abbiamo Teli che li fa a Novara, io li faccio ad Alessandria, cioè troviamo una formulazione di creare un gruppo di agenti sociali che va nel territorio, che abbiano perlomeno le prime nozioni ABC, quelle che noi diamo mio nipotino a 5 anni, incomincia a capire le lettere, eccetera. Sui bollettini dell'INAS, noi tanti anni fa avevamo già provato anche noi a farli. Io alla mia amica Donatella dico, invece di fare i bollettini, perché i nostri, come li chiamo? Io mi chiamavo sindacalista del patronato. Purtroppo vedo che oggi nel patronato funzionarie che abbiano la coscienza sindacale, se non ce ne sono molte, sono piuttosto delle impiegate, e non dobbiamo fargliene un torto, anche perché per essere sindacati bisogna, come posso dire, viverlo il sindacato, partecipare alla vita del sindacato, e purtroppo queste nostre colleghe non partecipano molto. Però io direi, loro sì che possono crearsi lo stipendio, visto che i governi riducono sempre fare le deleghe, non solo le concomitanti, che è facile, basta prendere un modello, si fa firmare, si allega, no, faccio la ricostituzione, Melelli fa la ricostituzione, non avendo lo SPID non può vedere se Vizio è iscritto o no, o peggio, se Vizio è iscritto un altro sindacato, per cui io devo fare la delega, poi la do a Santina, Santina la spedisce all'INPS, l'INPS dice guarda che è già iscritto un altro sindacato, allora Santina la dà a me, io la do all'INAS per sapere qual è il sindacato che il lavoratore paga. Ragazzi, qui andiamo avanti 15-20 giorni, no? Basta che stampi lo disegno. Ma io non riesco a stamparlo. Io non riesco, lo fa l'INAS. Ecco perché io sollecito lei, ma non solo per Alessandria, ma per tutto il territorio, che quel gruppo di agenti sociali che da noi era stato programmato possa avere lo SPID, possa avere cioè quel PIN, chiamiamolo così, per poter accedere e controllare le posizioni anche dei non iscritti, perché degli iscritti possiamo già arrivarci, ma a noi interessa i non iscritti, altrimenti le iscrizioni non le faremo più. Ultima cosa, 30 secondi. Investimenti, il lavoro prima di tutto, sì, ma il lavoro non si costruisce con le caramelle, si costruisce con i quattrini, con la riduzione del costo del lavoro, con la tassazione giusta. Il problema è, io ho letto da qualche parte in questi giorni l'Anna Maria Furlan che diceva sull'evasione fiscale la certezza della pena, perché qui tutti evadono e nessuno paga, qui tutto evade e nessuno va in galera, poi fanno la rateizzazione. Io ricordo sempre il nostro motociclista, doveva un sacco di miliardi, ne ha dati 3 e si è lavato la coscienza.